ora in onda Rock Revolution. Diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, cari amici di CRM Happy Radio, eccoci qui. Sono trasformato da oggi pomeriggio in diretta dal Dolce Estate per Casa Sposi. Sono trasformato nuovamente in Filippo Rock and Roll. Sembra un po' quelle, sai, quei soprannomi che si usavano da Holly e Benji, Mimi Ayuara, questi da cartoni animati. Filippo Rock and Roll, boh. Benvenuto stasera. Tanto benvenuti nuovamente su CRMP Radio. Ore 21 in punto, inizia l'appuntamento settimanale dedicato alla musica rock e agli artisti emergenti, ovvero Rock Revolution. Quindi dalle 21 a mezzanotte rimarremo in vostra compagnia, avremo degli ospiti, avremo musica dal vivo, tante notizie, tante curiosità, tante rubriche. Ad esempio parleremo di concerti, di notizie con News of the Week con Francesco Quartararo, ci metteremo in collegamento telefonico con Palermo per parlare con il nostro giornalista corrispondente Francesco, per parlare di quelli che sono gli eventi più interessanti di questo fine settimana. Ancora Rock Revolution Net, intervista telefonica via internet con Leitmotiv da Taranto, quindi conosceremo questa nuova band. Ancora Rock for You, 4 successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata. Ascolteremo 4 artisti fantastici: gli AC/DC con Bad Boy Boogie, David Bowie con Rebel Rebel, Depeche Mode con Personal Jesus e Ozzy Osbourne con Nativity in Black. Questo è il Rock for You di questa settimana. Ancora ovviamente non mancheranno i due brani in sequenza. Questa settimana accoppiata molto particolare, perché lui è uno molto tosto, un po' cattivello diciamo, no? L'altro invece è più bonaccione. Parliamo di Jon Bon Jovi con Living on a Prayer e Lenny Kravitz con Like a Jet, una canzone del 2012. Ancora altro due brani in sequenza con gli Oasis e Airborne. Anche in questo caso una accoppiata molto particolare, perché gli Oasis ascolteremo Born a Different Cloud, che è una canzone abbastanza tranquilla, mentre Lee Herborn Stand Up for Rock and Roll, che è una canzone molto più spinta, molto più spedita. Poi ancora News of the Week con Francis e Pablo, ci metteremo in collegamento con Ragusa. Non so adesso il nostro Pablo dove è stato inviato, però comunque ci metteremo in collegamento con sicuramente un'altra località della Sicilia che non è quella dove ci troviamo noi in questo momento, per parlare delle notizie più curiose dal mondo del web. Ancora spazio la musica italiana con Italians Do Rock Better, due successi rock italiani in sequenza mixata. Questa settimana due grandi gruppi, cioè gruppi, cioè un gruppo e un solista. Parliamo dei Negrita e di Vasco Rossi con una canzone, ragazzi, da leccarsi i baffi. Poi ancora I Love Rock and Roll, spazio ai grandi classici. Questa settimana Bill Haley and His Comets con We Are Gonna Rock Around the Clock e Chuck Berry con Johnny B. Good, che è una canzone classica conosciutissima. Ancora intervista in studio questa settimana da Palermo, avremo qui con noi The Absent Drinks, che suoneranno forse dal vivo, penso, no? Sì, suoneranno dal vivo qui in studio per noi. Ancora Rock Revolution Live, vivi l'emozione di assistere al più bel concerto della tua vita con due canzoni eseguite in versione dal vivo, quindi Dire Straits con Saltano Swing e i Queen con Under Pressure, che è una canzone poi veramente molto bella, tra l'altro che ha avuto non so esattamente, adesso ci informiamo con la nostra redazione, se è proprio stata fatta da David Bowie e poi ripresa dai Queen o viceversa, ci informeremo, mi scusate. Poi ancora Rock Revolution Unplugged, poi, per quanto riguarda le colonne sonore rock in versione acustica, questa settimana in Irlanda Nirvana e gli Eagles, non vi dico quali canzoni. Bene, tutto questo all'interno di Rock Revolution, da qui a mezzanotte avremo sicuramente modo di parlarne. Non mi rimane altro che dare il benvenuto a Simone Brancato. Buonasera Simone. Buonasera, ciao Filippo, ciao a tutti gli amici. Ringraziamo anche la nostra redazione di Da Parlavecchio, dall'altra parte ovviamente attiva con tutte le varie community su Facebook, Rock Revolution Redazione, Rock Revolution Redazione o CRMP Radio per quanto riguarda, ecco, la possibilità di comunicare con noi da Facebook. Poi siamo anche su Twitter, sito della nostra emittente crmpradio.it, oppure sito di Rock Revolution rockrevolution.it, dal quale potete ovviamente seguirci in live streaming audio e video per tutta la serata. Bene, questo e tanto altro su Rock Revolution. Iniziamo ora con la prima canzone, The Kinks con You Really Got a Man. This is Rock Revolution. So I can't sleep at night. You Really Got Me, bella sta canzone, poi si sente proprio questo riff chitarreggiante molto 90s. Io tra l'altro non so perché, ma in questi giorni mi sono un po' fissato con i Duran Duran, no? Però queste sonorità punk electro dei Duran Duran, quindi magari chiedo poi a Simone di regia se più tardi mi fa ascoltare il Rio dei Duran Duran, che è una bella canzone che riassume un po' questo post-punk degli anni 90 molto particolare, no? Perché io comunque pensavo che Duran Duran fossero stati una band un po' come i Take That, come i Backstreet Boys, quindi una boy band. In realtà poi con la maturità musicale mi sono reso conto del fatto che sono dei musicisti molto molto in gamma, molto dotati. Simon Le Bon, che ormai è vecchio, c'ha la barba, non è proprio Bon, è più Le Brut. È sempre comunque un bravissimo cantante. Detto questo, vabbè, poi vedremo insomma di farvi ascoltare qualcosina, però subito invece una nuova canzone degli Offspring, nuovo album per loro, tornano anche loro con gli anni che sono passati, purtroppo anche per loro, quindi non sono più proprio giovanissimi, con The Future Is Now. Revolution, grande rock. Addiction, Irresistible Force su CRMP Radio 21:18 in diretta Rock Revolution anche questo venerdì sera. Insomma, siamo qui, ragazzi, non si capisce più effettivamente se siamo in estate, inverno, autunno, perché di giorno c'è una certa temperatura, poi la sera quando va via il sole si abbassano le temperature, quindi vedi un po' di turisti magari la mattina al mare, la sera poi con il pareo, no, sulle spalle, che sentono un po' di freschetto. Anche noi, insomma, usciamo magari la mattina in maniche corte e poi la sera invece ci tocca mettere il giubbotto, comunque un maglioncino, perché c'è ancora una temperatura non indifferente. Insomma, vabbè, sono gli ultimi colpi prima di arrivare finalmente a quest'estate. Ovviamente noi poi ci fermeremo e continueremo con Rock Revolution Live, vi daremo appuntamento dai vari lidi, le varie situazioni dal vivo di Rock Revolution, anche perché, insomma, il stare in studio d'estate fa un po' brutto, no? Tutti fuori si divertono e quindi giustamente anche noi vogliamo stare all'aperto. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo e lui è un M2F, Elton John, la famosa Crocodile Rock. Rock. Elton John, Crocodile Rock. Certo, effettivamente questa canzone, soprattutto questo coretto, mi fa molto Pablo, devo dire la verità, eh. Vabbè, vabbè. Allora, come sapete, ne abbiamo parlato un po' durante le varie trasmissioni di CRMP Radio. In questi giorni stiamo tenendo un corso, come ogni anno, anche quest'anno CRMP Radio ha organizzato il corso di formazione radiofonica per dare la possibilità ai giovani intraprendenti e vogliosi, aspiranti, speaker e DJ, di poter intraprendere questa carriera o perlomeno di provarci. E quindi da qualche giorno, insomma, anch'io come altri colleghi ci dilettiamo nel fornire consigli ai nostri amici. Quindi se ci state seguendo dall'inizio della puntata avrete sicuramente visto dalla webcam che mi stavo prodigando nel fornire informazioni utili per gli amici che sono qui con me questa sera, gli allievi del corso. Ne abbiamo tre quest'oggi. E buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera. Oh, vi volete presentare? Allora c'è con noi Emanuele. Sì, mi chiamo Emanuele, vengo da Cefalù. Spero di diventare un DJ, ma anche un buon speaker. Oh, bene, bene, bravo. Poi abbiamo Alex Alessandro Savarese. Ciao, buonasera, grazie a Rock Revolution, grazie a CRM, soprattutto a Filippo. Senti, di averci... bella voce che c'è Alessandro, una bella voce così. Di averci invitato qui. Me lo fai un po' di Vasco Rossi. Io volevo ringraziare, un saluto affettuosissimo a tutti gli ascoltatori di Cinema e Pirario. Hai visto che bravo, veramente complimenti. Ciao Vasco, grande. Grazie, grazie. E poi abbiamo anche lui, no? Giuseppe. Oh, Giuseppe, buonasera. Buonasera. Diamo nome e cognome. Giuseppe Carrozza. Carrozza da Castelbuono. Castelbuono, cittadina sempre molto sensibile alla musica dal vivo, sì, al rock anche, no? Infatti, infatti ogni anno c'è l'Ipsic Rock, questa manifestazione molto importante che fa venire un sacco di artisti interessanti da varie parti d'Europa, no? Bene, allora ragazzi, come sta andando questo corso? Insomma, volevo fare, come dire, la persona estranea ai fatti. In realtà ci sono dentro, però per così, per chiacchierare, volevo domandarvi come sta andando questo corso, se pensate di avere fatto dei progressi dal punto di vista dell'aspetto legato alla radiofonia. Abbastanza, i progressi si vedono da stasera, perché io fino, come lui sa, Filippo, nelle prove io ero sempre un po' così, diciamo, mi impappinavo molto, ma devo dire che sono di una serenità in onda, o come stasera, come non mai, sembra sia radio da cent'anni. Poi Alessandro, no, tra l'altro, c'ha un accento che va dal torinese al milanese al palermitano. Si capisce? Il risotto al capriolo. Non è potevo parlare per una palermitano, però non mi sembra il caso in radio. È giusto, è giusto, è giusto. Emanuele, invece, per quanto ti riguarda, insomma, Emanuele che ha il desiderio di diventare un bel DJ famoso. Sì. Fare un sacco di soldi, sai che ci sono DJ tipo DJ Tiesto che guadagna 140.000, no, forse anche di più, di migliaia di euro ogni serata. Non farebbe, sarebbe bellissimo uno diventare come, per esempio, Bob Sinclair, David Guetta. Infatti. Beh, noi te l'auguriamo di tutto cuore, insomma. Poi speriamo. Si comincia dal picco, poi sei giovane, non posso chiederti, sì, quanti anni hai. 19 anni, quindi hai tutta la vita davanti. Sicuramente si comincia dal piccolo e poi si va crescendo. Invece Giuseppe è una persona appassionata di teatro, sì, abbiamo scoperto, sì, no? Sì, quindi sì, tanti anni a Castelbuono con un'associazione. Sono i Neuroni in Atto, da 5 anni facciamo teatro, io ho cominciato nel 98, quindi già da ragazzino, ormai l'età è andata un po' avanti. Perché comunque sotto alcuni punti di vista il teatro, teatralità, si propone anche nel parlare al pubblico, quindi nel cercare di comunicare qualcosa. Va bene, allora questi ragazzi saranno con noi fino alle 23 per assistere a Rock Revolution, ma ovviamente far parte di Rock Revolution, infatti parleremo con loro anche di alcune canzoni di Rock Revolution. Nel frattempo ci mettiamo subito in collegamento con Palermo per Rock Revolution Net. Rock Revolution Net. Sistema attivato. Connessione in corso. Elaborazione dati in progresso. Città di destinazione. Località selezionata, Palermo. Point to point stabilito. Point to point stabilito per la città di Palermo, dove siamo al telefono con il nostro carissimo giornalista corrispondente Francesco Quartararo. Buonasera Francesco. Buonasera a voi. Allora, in questa settimana veramente molto intensa e odorosa. Eh sì, guarda, ne parlavamo la settimana scorsa, i temi che tengono banco a Palermo sono sempre gli stessi, Munnizza e locali, nel senso che c'è stato anche un incontro a livello regionale per cercare di smuovere un po' la situazione, cercare di capire dove vuole andare il comune e soprattutto dove devono arrivare gli organizzatori di eventi, nel senso che non esiste ancora un regolamento unico e concordato. Si è aperto un tavolo di discussione, come ti dicevo, la scorsa settimana con l'amministrazione comunale, il sindaco, i gestori locali che lamentano un uso troppo largo delle regole, ci vuole più stringenti, insomma. Aspettiamo l'esercito, l'ultima che infatti, è stato proprio l'appello, l'appello per richiamare l'esercito a Palermo e cercare di distruggere i rifiuti. Tra l'altro ne parlavo, ripeto, proprio la scorsa settimana, abbiamo Letna attivissima a sto punto, infatti come ha proposto qualche genio prendere tutta la monnezza e buttarla dentro Letna, ma tu ti immagini con l'aereo, ma magari con i sacchettoni andare lì, è una cosa vergognosa. Non so se ci arriveremo, guarda, incredibile. Qualche disperazione possa anche gestire il gioco. Beh, ci auguriamo di no, ci auguriamo le sorti delle persone che lavorano anche nel settore dell'AMIA, che si possa trovare una soluzione adeguata sia per i lavoratori sia per noi cittadini, per evitare insomma di convivere con la spazzatura che insomma poi soprattutto il fatto che siamo in un periodo estivo importante, un periodo in cui le nostre città si riempiono di turisti, di visitatori, quindi anche esteticamente non è proprio il massimo mostrare le nostre strade ricolme di rifiuti, di sacchi neri, di sacchi... Proprio questa settimana è capitato di avere degli amici provenienti dall'estero, innamorati pazzi della Sicilia. Fortunatamente non sono passati da questo lato della Sicilia. Veramente. Perché, devo dire la verità, molto spesso i turisti si fermano, specialmente in questi periodi, si fermano a fotografare la cattedrale e i cumuli di spazzatura. Certo. Non è un bel messaggio, anche perché Palermo ha un odore suo particolare che adesso si è confuso in gelsomino e spazzatura. Infatti, mamma mia, vergognoso. Comunque, voltiamo pagina. Dimmi. Sì, ecco, voltiamo pagina, brevissimo. Ti volevo dire proprio questo. Il 24 sera c'è stata una concentrazione di eventi impressionante. Proprio la notte di San Lorenzo della musica, quasi. Piovevano eventi a raffica. Un vero e proprio boom, possiamo dire. Capita ogni tanto con alcuni periodi tipo le serate di Halloween o alcuni periodi di feste particolari. La sera del 24 è stata una giornata proprio in cui moltissimi gruppi hanno preso appuntamenti in giro in quasi tutti i locali della città e hanno suonato dalla musica celtica al rock, indie. Questa settimana, ad esempio, segnale Cinema Noir allo Zazà, e poi una piccola sorpresa, perché Sirio Tate organizza una sua piccola serata al Barcollo. Abbiamo i Sexual Things, un altro blues band che stiamo cercando così di portare avanti, e insomma abbiamo preparato un qualcosina di molto interessante. Tra l'altro si entra per ascoltare un concerto e magari si ha la possibilità di diventare famosi, perché certo, vogliamo proporre anche una rivisitazione in chiave parodistica di The Voice of Italy. Abbiamo in mente di con tanto di poltrone girevoli? Sì, abbiamo in mente di coinvolgere musicisti e cantanti palermitani della scena locale, in un connubio che in qualche modo dà visibilità agli artisti, ma ci permette anche di giocarci su, non prendersi troppo sul serio, e dare sempre maggiore visibilità. Bene, bene, una bellissima iniziativa, vi facciamo tanto in bocca al lupo. Ovviamente Sirio Tate, nostro partner, dove potete trovare tutte le informazioni sugli eventi più interessanti nella zona siciliana, ma non solo. E ricordiamo, potete accedere da Google Sirio Tate, Sirio Tate, oppure dal nostro banner su rockrevolution.it. Francesco, se non hai altri eventi da segnalarci, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. E allora, ti segnalo così molto rapidamente il 1° maggio Parco Nini Cassarà, parco aperto al pubblico, c'è un bel calendario di eventi che ancora si deve definire, ma il resto insomma lo scoprirete su Sirio Tate. Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo un buon weekend e buon 1° maggio, perché non ci sentiremo prima della prossima settimana, quindi buon divertimento. Buon divertimento a tutti e come sempre buon rock a tutti. Buon ciao. Rock anche a te, ciao carissimo, ciao. Ah, che bella questa ragazza. Da quanto tempo non l'ascoltavo? Mi manca la mia chitarra. Sono gli Eagles. Take it easy. Dovremmo prenderla tutti quanti un po' più alla leggera, forse, no? Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I

Revolution on the web. Scopri il sito di Rock Revolution. Interviste, video, foto, recensioni, podcast e tutto sul tuo programma rock preferito. www.rockrevolution.it. Revolution in diretta su CRMP Radio. Questi erano i primi due brani in sequenza, vero? Sì, Filippo, abbiamo ascoltato Jon Bon Jovi con Living on a Prayer, che è una canzone dei Bon Jovi, scritta da Bon Jovi, Richie Sambrara e Desmond Child. Fu estratta come secondo singolo del terzo album in studio del gruppo, Slippery Where Wet, dell'ottobre del 1986, ed è il pezzo portante del disco, è probabilmente il brano più famoso e con il quale vengono poi maggiormente riconosciuti i Bon Jovi, tanto che il gruppo poi stesso lo inserì nel suo Greatest Hits Crossroad del 1994, dove tra l'altro compare anche una nuova versione della canzone chiamata Prayer 94, nelle copie del disco poi distribuite per il Nord America, Nord America. Tra l'altro, sì, infatti c'è tuttora questa usanza di distribuire i prodotti, i dischi prodotti in varie nazionalità, ad esempio c'è la produzione per gli Stati Uniti, la produzione per la Cina e quant'altro. Poi tra l'altro questo è un disco che è stato prodotto negli anni 80 e secondo alcuni sono gli anni dove la discografia ebbe un maggior successo dal punto di vista di qualità e di vendita. E poi abbiamo ascoltato Lenny Kravitz. Sì. Abbiamo ascoltato Lenny Kravitz con Like a Jet del 2012, quindi molto più recente come musica. Lenny Kravitz è uno degli artisti più rock che hanno aderito anche al programma di NFL Attempts, che è una campagna nazionale che dispone di musicisti registrando i loro inni per le proprie squadre di casa. E il brano di Lenny Kravitz, Like a Jet, che abbiamo appena ascoltato, è stato scritto proprio per la sua amata New York Jets, che non sappiamo se è una squadra di baseball o di rugby, che chiedo alla nostra redazione. Penso di informarsi. Di baseball. Bene, grazie Giuseppe. Adesso invece ci mettiamo in collegamento con, credo, la città di Taranto per andare ad intervistare la prima band di questa settimana. Rock Revolution connected with... Sì, ricordavo bene, ci mettiamo in collegamento con Taranto, non so esattamente se è proprio la città di Taranto o la provincia, comunque parleremo con chi, Simone? Ti ricordi il nome, scusa? Con Giorgio. Giorgio? Sì, eccomi qua. Ciao, eccomi qua, buonasera. Dalla provincia di Taranto. Dalla provincia di Taranto. Io sono stato a Manduria, tu dove ti trovi? Siamo vicinissimi a Manduria. Oh, che bravo, il paese a fianco. Che bei posti, veramente, posti meravigliosi. Buonasera, benvenuti a Rock Revolution. Grazie, benvenuti. Il benvenuto è molto ben accetto da me soltanto, però lo estenderò a tutti i leitmotiv. Grazie. Allora Giorgio, cominciamo un po' nel dare un po' di informazioni agli ascoltatori che seguono Rock Revolution per conoscere meglio la vostra band, quindi nome, data di nascita, idea di questo progetto. Sì, dunque, allora, si legge Leitmotiv, però si scrive Leitmotiv. Siamo in giro da una decina d'anni ormai, abbiamo 3 album all'attivo, l'ultimo A Tremula Terra è uscito nell'ottobre del 2012, quindi sono 10 anni che suoniamo e siamo una band che è difficile collocare di genere rock principalmente, però poi abbiamo diverse contaminazioni, mediterranee, pop, folk, post-punk, insomma una miscela, una miscellanea di musica e anche di teatro, insomma. Bene. Senti, perché avete scelto questo nome particolare? Siamo curiosi di sapere, insomma, il significato di Leitmotiv. Sì, sì, allora l'ha scelto uno di noi praticamente, come dicevo prima, più o meno 10 anni fa. Il discorso era questo: noi siamo tutti originari, no, di queste zone, di Taranto e della provincia. Sì. Però abbiamo iniziato a suonare insieme praticamente nelle pause dall'università, e quindi potevano essere l'estate o Natale o Pasqua, perché in realtà essendo tutti nativi della Puglia, però studiavamo come molti meridionali, eravamo emigranti, mm-hmm, anche noi, per studiare in altre città. E il leitmotiv, appunto, che significa, no, il motivo ricorrente, era un po' quello di ritrovarci e di suonare. E allora, scherzando, uno di noi diceva: guarda, ma questo forse è il nostro proprio leitmotiv, è il nostro trovarci per suonare. Questa parola iniziò a portarci un po' fortuna qua e là nei primi concertini, quando usavamo questo nome, e da lì in poi siamo rimasti tali, ci siamo affezionati e non l'abbiamo più voluto cambiare. Bene, bene, molto, molto chiaro come concetto. Senti, volevo chiederti un'altra cosa: se vi sentite portavoce di qualcosa di nuovo di fronte alla realtà, insomma, di tantissimi artisti emergenti, cantanti che attualmente in rete e non propongono la loro musica, cosa c'è da aspettarsi di particolare? Perché ascoltare Leitmotiv? Guarda, io non lo so se lo siamo consapevolmente portatori di nuovo, sicuramente posso dirvi che ce la mettiamo sempre tutta per cercare di essere quanto più originali, beh, forse lo fanno un po' tutti, da parte nostra non abbiamo muri, ecco, chi ascolta la musica dei Leitmotiv in rete può accorgersi della varietà di generi, della tavolozza di colori, che sono più colori, quindi secondo me se sei affascinato magari non da un solo genere, ma diversi generi, sei un ascoltatore che non ha pregiudizi o barriere, la nostra musica forse fa il tuo caso, ecco, da questo punto di vista, perché poi mescoliamo lingue, generi, linguaggi, cifre, un po' una faccianca gioiosa. Argomenti, testi delle vostre canzoni cantate in lingua inglese, lingua italiana, e contenuti, di cosa parlano le vostre canzoni? Allora, prevalentemente sono testi scritti in italiano, però abbiamo delle puntate anche in inglese ed in francese addirittura, e in dialetto, nei dialetti meridionali, sia napoletano che pugliese. Mm-hmm. Ci trovate un po' di tutto, ci sono delle canzoni apertamente, cioè, specchio della realtà in cui viviamo, quindi con generi, insomma, con tematiche vicine all'uomo nel mondo, proiettato nel mondo, e forse altre proiettate al mondo dell'uomo, cioè più intime, magari discorsi, insomma, che nascono un po' autobiografici, o che ci sono delle storie narrate. Anche qui nei testi siamo abbastanza vari. Lo so che suona un po' come uno spot per noi, però. No, no, ma anzi, insomma, ci hai dato una bellissima presentazione di quello che andremo a ascoltare questa sera. Noi vi ringraziamo. Intanto volevo far sapere ai nostri ascoltatori che possono trovare maggiori informazioni ovviamente sulle varie community, MySpace, Facebook, quindi cercando io non riesco mai a capire la pronuncia, scusami, l'accento è Leitmotiv. Allora, facciamo così, la scriviamo in italiano che è più facile, si dovrebbe dire Leitmotiv perché è parola tedesca, però basta scrivere Leitmotiv tutto attaccato, però ecco, perfetto. Esce una pagina in italiano con 4.200 amici più o meno su Facebook. Ah, complimenti. Andiamo da un po', stiamo costruendo un piccoli passi un po' la nostra storia. Se no, ci trovate sul sito ufficiale che è www.leitmotivonline.net, e da lì avete tutti i riferimenti per ascoltare tutta la nostra musica su Last FM, Spotify, Bandcamp e chi più ne ha più ne metta. Senti, stavamo guardando nel frattempo, mentre parlo con te, un video con delle ambientazioni su delle case in mezzo a un quartiere, in un centro storico, molto particolare, tra l'altro molto vicino a quelle che sono poi le, come dire, le location siciliane, quindi con queste mura bianche, con queste situazioni un po' arabe. Dove eravate? Sì, sì, verissimo. Ma credo che lì, credo che se non sbaglio, è il video di pecore. Perfetto. Siamo in una cittadina in provincia di Taranto che si chiama Grottaglie, la cittadina della ceramica. Sì, che però a squarcio, io conosco anche un po' la Sicilia perché ci vediamo spesso in tour e siamo molto contenti di tornarci. E in realtà la Puglia e la Sicilia si assomigliano molto anche per queste, per questi colori arabi, per queste, insomma, palazzi e scorci che rimandano appunto al Mediterraneo. E quindi sì, lì eravamo a Grottaglie ed è quello il video di pecore che lo ha girato, se posso dirlo, Giovanni Blasi, che è un certo, bravissimo regista. Certo. Senti, ultima domanda, sì. Purtroppo molte volte, insomma, ci troviamo nelle condizioni di dover avere a che fare con la globalizzazione. Globalizzazione intesa anche dal punto di vista delle tendenze, delle mode, no? E molte volte si tende a fare quello che altre persone fanno. Dico questo perché adesso ascolteremo pecore e forse ci sono tante pecore in questi ultimi anni in giro, no? Sì, tantissime. Purtroppo viviamo un'epoca di omologazione pericolosa. Io proprio ieri leggevo Pasolini, che di una, veramente di una modernità straordinaria, che parlava appunto di questa cultura del consumismo che ci sta rendendo tutti omologhi, quando in realtà la diversità è una ricchezza da sempre. Il rischio appunto è quello di diventare pecore, non nel senso simpatico di questo animale che poi è mansueto, ma forse diventandoci troppo mansueti, cioè privi di cervello e seguendo il pastore di turno, che è pericoloso. È certo, vero, decisamente. Concordo con quello che dici. Grazie mille, grandissimo in bocca al lupo, grazie per essere stati a Rock Revolution, a presto. Grazie a voi ragazzi, davvero, a presto, buon ascolto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Se cantare di lune e emozionarti, io so amare così. Mentre fuori diluvia o deserti risolti, hanno nome e pensieri. Le memorie del tempo sono carte dal mazzo, dove impara il destino. La speranza è una fune e la logora è il senso, chi ti vede cattivo. Chissà perché nel mio refrain il gallo che canta è stonato. Mo, sai dirmi se la vita è roulette russa o campo minato. Mentre fuori discute la congiura dei pazzi del palazzo d'inferno, come fichi seccati sono rimasti i miei sogni tra la paglia e il rimorso. Poi rivedo quegli occhi che mi passano accanto nelle fotografie. Tante ammazzano in fila gli operai e quel sogno di cambiare il cammino. Mo, chissà perché nel mio refrain il gallo che canta è stonato. Mo, sai dirmi se la vita è roulette russa o campo minato. Cord con World Up, bellissima cover del Cameo. Anche in questo caso eravamo negli anni 80, questa invece era una canzone degli anni 90, credo, 2000. Va bene, allora vi ho anticipato il fatto che questa sera con noi avevamo alcuni ragazzi del corso di formazione radiofonica di questo anno di CRMP Radio. Abbiamo conosciuto Giuseppe, Emanuele e Alex. Adesso abbiamo Fabio, certo. Buonasera Fabio. Ciao Filippo, ciao a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amici di CRM. Allora Fabio, anche a te questa domanda, come sta andando questo corso? Devo dire sta andando benissimo, è divertentissimo stare in radio, fare radio, nuova esperienza che mi sta veramente coinvolgendo tantissimo. Bene, spero di continuare. Fabio, aspirante speaker? Sì, aspirante. Come mai hai deciso di fare questo corso di formazione? La mia passione per la musica innanzitutto, fare radio è anche fare musica. E comunque anche esprimermi in radio, ecco, cercare di comunicare. Fabio tra l'altro è un animatore, no? Sì, sei anche un musicista. Sono musicista, sì, ovviamente non della musica che rock. Sta andando in onda, in quanto ho studiato strumenti classici, pianoforte, violino. Anche se comunque un po' di rock col violino l'ho sentito. Ecco, magari qualche sera ti facciamo venire, cioè c'è una bella sonata rock and roll. Perché no? Va bene, allora con Fabio adesso e con Alex parleremo del Rock for You, non prima di aver ascoltato ancora un paio di canzoni. In arrivo il Placebo, Special K, che in realtà non sono i cornflakes, non sono noi, come si chiamano? Come si chiamano quelle cose che si mangiano a colazione? Ma che un vuoto di memoria, com'è? I cereali. I cereali, oh! I cereali. Ho vinto. Placebo con Special K su CRMP Radio in diretta Rock Revolution anche questo venerdì sera fino a mezzanotte. Vi terremo compagnia con il rock e con la musica emergente. Altro grande successo del passato sono i Queens of the Stone Age, grande classico all'interno di Rock Revolution. Questa è No One Knows. Yeah. Queens of Stone Age, No One Knows. Che bella canzone, è un'energia proprio al 100% rock and roll. Allora ragazzi, fra poco parte il Rock Folio di questa settimana, i quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Cosa ascolteremo di bello? Allora, ascolteremo di bello gli AC/DC con Bad Boy Boogie e poi David Bowie con Rebel Rebel. Ah, due grandi classici, quindi con gli AC/DC ad iniziare e poi David Bowie, che abbiamo già ascoltato prima con Under Pressure, una canzone che ha scritto a quattro mani con Freddie Mercury. Qualche informazione riguardo queste due canzoni? Ma sì, allora incominciamo con gli AC/DC con questa canzone Bad Boy Boogie, che è dell'album Let There Be Rock. Che è il quarto album che è stato inciso nel 77, e da questo album possiamo percepire che gli AC/DC si sono liberati definitivamente di queste sfumature pop ancora percepibile sulla parte degli album precedenti. Let There Be Rock, un album grezzo, senza compromessi, che rivaleggia con la musica punk del periodo per impeto di immediatezza, sacrificando comunque le componenti rock roll blueseggianti, caratteristiche di questo gruppo, che appunto sono gli AC/DC. Io reputo un gran gruppo. Un gran gruppo, è una brutta esperienza tu con gli AC/DC. Sì. non la raccontiamo. E poi invece ascolteremo un'altra canzone di David Bowie, che tra l'altro ha anche fatto parte della colonna sonora di Radio Freccia, il film di Luciano Ligabue, che è Rebel Rebel. Sì, che è stata scritta il 15 febbraio del 1974 con Queen Beach come lato B di questo, diciamo, disco sì. Due mesi prima dell'LP Diamond Dog, di cui avrebbe fatto parte, diventa in breve tempo un inno del movimento glam, nonché un classico del cantante inglese. Tra l'altro la sua prima hit del 69 era senza la chitarra di Mick Ryson, se non ricordo male. In pratica Rebel Rebel condensa in pochi versi la velocità, il desiderio di ribellione, il bisogno di dare libero sfogo alla propria individualità, tipici di ogni movimento giovanile. Abbastanza rock, direi. Molto rock, anzi quasi punk, molto anarchico. Infatti proprio in quegli anni si stava sviluppando in Inghilterra poi il movimento punk anarchico, come Anarchy in the UK dei Sex Pistols. Bene, invece Fabio, poi dopo queste due canzoni ascolteremo altre due canzoni. Sì, esattamente, continueremo con i Depeche Mode, Personal Jesus, e infine Ozzy Osbourne con Nativity in Black. Oh, che belle canzoni. Sì, allora. Sì. Allora, possiamo dire su Personal Jesus, brano di grande successo per la band britannica, appunto Depeche Mode. Questo singolo, lanciato nel 1989, è stato considerato uno tra i dischi più venduti di tutti i tempi. Pensate infatti che è stato posizionato alla 368esima posizione dalla rivista Rolling Stone. Beh, non proprio fra le prime posizioni, 368, insomma. Però per quei tempi. Per quei tempi, certo. Perché comunque è una canzone innovativa. Tra l'altro è anche una cover di una canzone di Johnny Cash, Personal Jesus. Non è proprio dei Depeche Mode, ma è una cover di Johnny Cash. Bene. Mentre Ozzy Osbourne, Nativity in Black, diciamo anche questo brano di grande successo per il gruppo inglese Black Sabbath. Mm-hmm. E pensate che questa canzone costò molto a questo gruppo, in quanto furono accusati di satanismo. Poiché questa canzone, diciamo, è un riferimento a Lucifero, quindi si pensava che la canzone potesse trascinare l'ascoltatore verso il satanismo. Ecco, questa è una cosa un po' comune quando si ascolta il rock and roll. Molti dicevano, no, che il rock and roll portava al satanismo. Sono dei luoghi comuni che noi cerchiamo in qualsiasi modo di sfatare, che sono tutte delle grandissime fregnacce. Il rock è una musica come tutte le altre, sì, e va ascoltata. Infatti va ascoltata come tutte le altre. Va bene, quindi anche per oggi siamo pronti ad ascoltare, gustare del Rock for You. Poi avremo la band ospite in studio di questa settimana. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. We'll be right back. for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. For You, quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. Reach out, touch faith. Yeah. 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. I'm real. Era il Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni anche questa settimana, insomma ve l'abbiamo fatto ascoltare. Quattro grandi canzoni erano gli AC/DC con Bad Boy Boogie, David Bowie con Rebel Rebel, Depeche Mode con Personal Jesus e poi Ozzy Osbourne con Nativity in Black. Bene, siamo pronti adesso per l'intervista di questa settimana. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. È proprio così, cari amici ascoltatori, anche quest'oggi abbiamo il piacere di avere degli ospiti in studio. Da Palermo, di Absent Drink. Ciao. Uè, ragazzi, buonasera. Buonasera. Avete sentito? Avvicinatevi ai microfoni, altrimenti da casa non sentono una mazza, ve lo dico subito. È inutile, pensano che stiamo parlando col linguaggio dei muti, non vi sento. Allora, benvenuti a Rock Revolution da Palermo, giusto? Sì, precisamente. Dunque, abbiamo con noi Rob, chitarra e voce, qui, Ciccio al basso e i cori e Frank alla batteria e cori. Questa sera accompagnato da un bellissimo tamburello, come si chiama? Tamburello? Beh sì, sono dei cimbali così. Dei cimbali, bene. Allora, gli Upset Drink da Palermo, partiamo dall'inevitabile domanda iniziale. Parlateci della vostra band, di come nasce l'idea di questo progetto, di quando nasce questo progetto. Beh, il nostro progetto nasce intorno al 2006, più o meno, 2005-2006. Nasce un po' per caso, nel senso che io avevo già comunque intrapreso un po' la strada della musica, avevo già messo un po' in piedi dei gruppi, però molto, avevo tipo 15 anni così. Quindi a un certo punto prendevo lezioni di pianoforte. Quindi prendevo lezioni di pianoforte dalla madre di Frank. Insomma, sapevo di questo ragazzino tipo che voleva suonare un po' così. Allora ho detto vabbè, allora inseriamo nella band anche lui. E quindi è nata diciamo la collaborazione. Bene, che è nata, scusate, mi sono perso forse l'anno. Quindi 2005-2006 siamo, sì, 2005-2006, quindi circa 6 anni, sì, 5-6 sì, anni sì. Bene, e poi si è aggiunto Ciccio. Si è aggiunto Ciccio, è proprio recentissimo. Dov'è? Nuovo è recentissimo perché insomma abbiamo avuto un batterista e un bassista storico, Giovanni, e quindi dopo che salutiamo dopo per scelte lavorative insomma è uscito dal gruppo e abbiamo sostituito. Bene, allora come si è evoluta nel tempo la vostra concezione musicale e il vostro sound? Voi avete iniziato facendo delle cover, curando una proposta musicale dedicata da artisti di altro genere dalla vostra musica, oppure avete iniziato subito con musica inedita? Sì, no, abbiamo cominciato le cover e ci accompagnano ancora le cover, perché comunque sono degli omaggi a chi c'ha... Le pietre miliari. Le pietre miliari, facciamo proprio quelle classiche. Tipo? Abbiamo David Bowie, appunto, proprio quella che avete sentito poco fa. Neil Young, CCR. Neil Young? Quale Neil Young? Elvis. Favorite Song? No, abbiamo quella più pesante, Keep on Rocking in the Freedom. Ah, bellissimo. Bellissimo. Insomma, quindi le cover ci sono sempre state. Abbiamo avuto un progetto in acustico e quindi le abbiamo riarrangiate 2 milioni di volte. E ci saranno un po' sempre. Bene, bene, no, è una cosa nuova, sì, perché molte band dicono: no, noi le cover non le facciamo. No, vabbè, alzo le mani, schifati. Ma anche i grandi, anche vabbè, dai Muse. Cioè, no, non a caso, molti, molti artisti, anche Green Day, per esempio, cioè, o altri, altri, sì, durante i loro live fanno canzoni di altri degli CD, esatto, di Purple. Quindi non ci vedo niente di male, onestamente. Se lo fanno loro. Lo fanno loro, giusto. Va bene, volevo farvi un'altra domanda: in che genere precisamente o non precisamente potreste inserire il vostro sound? Cioè, pensate di essere punk, essere metal, di essere trash? No, noi siamo alternative rock, è quello. Però diciamo che strizziamo l'occhio un po' al pop in alcune, in alcune canzoni, perché comunque, cioè, siamo italiani, quindi la melodia c'è, ci deve essere, certo, la teniamo sempre. Quindi immagino cantiate in italiano. No, no, cantiamo in inglese. Quello è il bello. Cioè, portiamo la melodia italiana con l'inglese, perché l'inglese è, insomma, personalmente sono io che canto, quindi personalmente mi è sempre piaciuto. Piaciuto come musicalità, come melodia. Sì, sì, sì, un'altra. Bene, allora siamo curiosi di andare ad ascoltare subito la prima canzone, The Absent Drinks. Questa è Lonely Man, in diretta su CRMP Radio Rock Revolution. Vi facciamo conoscere la musica emergente, la musica nuova. E loro sono una di quelle band da ascoltare con attenzione. Sono molto giovani, ma promettono bene, questi ragazzotti. Lonely Man, The Absent Drinks. And Drinks, questo è Lonely Man, proprio un rock genuino, direi, no? Sì. Una cosa pulita, essenziale, sì, molto carica di proprio di rock and roll, no? Quando sì, si quattro accordi. Quattro accordi. Allora, questa sera con noi di Upset Drink, mi sono dimenticato, però volevo informare gli amici ascoltatori che possono ascoltarci e guardarci anche in streaming, oltre che in radio, su rockrevolution.it, e interagire eventualmente con noi dal pulsante invia messaggio in diretta. Potete quindi interagire con la band, se avete piacere di fare dei saluti, dei commenti riguardo la loro musica. Sarà nostra cura, insomma, fare da tramite, ovviamente, oppure in modo tradizionale con gli SMS al 335 56 37 251. Detto questo, volevo parlare un po' con voi ragazzi. Abbiamo parlato, diciamo, ecco, dell'aspetto legato al vostro sound, alla vostra struttura musicale. Abbiamo scoperto appunto che avete iniziato facendo le cover, le fate tuttora, e quindi mi è sembrato di capire che comunque c'è una certa come dire, flessibilità musicale all'interno della band, e quindi volevo chiedervi se siete sempre fedeli ai vostri pezzi o di tanto in tanto vi capita di fare qualche modifica al testo o alla musica anche durante un'esibizione dal vivo. Sì, cioè di base c'è, cioè, il fatto che abbiamo generi che ci appassionano diversi, cioè siamo, non andiamo mai d'accordo dal punto di vista musicale, cioè non c'è mai niente che ci mette veramente perché d'accordo. Sono curioso di scoprire, insomma, faccio una brevissima indagine. Sì. Roba, allora Ciccio cosa ascolta? Ma io sono appassionato intanto dell'indie rock, quindi Radiohead mi piacciono tantissimo, Arctic Monkeys, poi vabbè certo il jazz, ma comunque apprezzo molti generi, non sono uno che si blocca su un genere e basta. Magari ero così quando ero più piccolino, vabbè, ma è anche normale. Piccolino, insomma. In realtà siete giovanissimi. Sì, no? Vabbè, quanti anni avete in media? Sui 19, vabbè, 20? Io 25. 25? 18, 18, 20. Ecco, quindi siete giovanissimi. E la cosa che mi ha stupito è il fatto che io gli ho detto, ragazzi, mi sono preso con una canzone dei Duran Duran, Rio, e tutti hanno detto sì, la conoscevano. Una cosa che di solito non avviene, tu dici Rio, cos'è? Il Rio Azzurro, quello per i cessi? No, in realtà no. È una canzone molto bella. Per esempio, io e Frank siamo appassionati di progressive, quindi musica, cioè, ormai purtroppo superata, però il fusion, comunque si tratta di generi abbastanza antichi, certo, e certo. Li mettiamo però tutti là, cioè in quello che scriviamo c'è, cioè, bello, quello. Bello, è importante, cioè... è importantissima questa cosa. Arriva un primo messaggio per voi da Ionela, dice grandissimi Abs and Drinks, quindi okay, complimenti per grazie. Voi è sempre bello ricevere i complimenti, cosa ne pensate? Cioè sono proprio, diciamo, ci danno il gas, sì, sì. Il motore per poter fare musica, sì, per andare, sì, avanti, ovvio. Al di là di tutte le difficoltà, che sappiamo che difficoltà innumerevoli, sì, no? Sì, da, sì, tutti, sì, i punti di vista, cioè proprio di strutture e di comunque della cultura che ogni tanto manca, magari, certo. La cultura del rock e della musica, certo, dal vivo. Il pubblico deve pure sollecitare il, no, ma infatti noi, cioè, proprio appena ci arriva un messaggio di quello, un applauso, insomma, fisicamente così, è già veramente una soddisfazione, si è già più motivati comunque, certo, certo, certo. Allora ragazzi, siamo curiosi di ascoltare una vostra bella canzone da vivo, avete portato un po' di strumenti, e quindi volevo domandarvi, insomma, intanto cosa ci farete ascoltare di bello dal vivo in versione acustica, prima volta che fate in acustico? No, mi avete detto che già avete avuto un'esperienza, sì, abbiamo, no? Già suonato, anche se non i nostri inediti, cioè abbiamo proprio per, diciamo, per l'occasione abbiamo riarrangiato un po' tutto, quindi questa canzone già vado, la presento, sì, già. fai tutto tu, allora io dico soltanto Abs and Drink, okay. Live Unplugged Rock Revolution, ok, questo è Common Mind. I just think that my case not simple like yours. Another year has passed again. My question is so long. Day after day, life after life, too many people are by my side. Now I know that it was not so real. I tried to think, but it was not so real. Time is running through my hands, and I started to choose its life. Another son is born on this rim. The walls tell me what it's right. Day after day, life after life, too many people now are crying. Now I know that it was not so real. Carry on, I carry on, I carry on with my mind. I carry on, I carry on, I carry on with my mind. Into to the replace stars and planets never falling down. Writing a song when your girlfriend is down shouldn't bring you up. First I saw you, then I forgot all. I don't know why, and I think that's so. Another, there's no one that calls my name. It's clear there are all those pictures had no sound. I carry on with my mind. I carry on with my mind. I carry on with my mind. I carry on with my mind. Che bello, grazie, grazie. Dal vivo in versione acustica di Upset, sì. Drinks da Palermo. Un po' di complimenti per voi, grazie. Da Walter York, dice: siete grandissimi, Picci. Non vedo l'ora di vedervi domani sera. Sì, sì, domani saremo al Watership Down Bag Cafe di Palermo. Ah, bene. Quindi in pieno centro, proprio scuoteremo un po' il centro. Bene, sì, bene, una bella cosa. Quindi versione acustica o elettrica? No, elettrica. Rigorosamente elettrica, anche perché qui con tutti i limiti, perché noi diciamo ci affidiamo parecchio all'elettronica, nel senso proprio personalmente dei pedali, insomma degli effetti a pedale. E della chitarra che qui manca. Però comunque ha reso molto bene, sì, devo grazie. Dire. Allora, parliamo di temi, di argomenti, no? Quali sono i temi preferiti nei vostri testi? Volevo chiedervi, insomma, se ci sono dei riferimenti alla vita reale o a piccoli eventi che magari hanno dato l'ispirazione, l'idea di una canzone. Sì, è vita reale, quella dei testi è proprio vita reale. È vita reale, però filtrata magari proprio dai nostri pensieri. Come per esempio in Common Mind, che parla dei labirinti che crea ogni persona dentro di sé, che magari non condivide, però che conosciamo tutti, insomma, quelli proprio dell'alienazione dalla società, che sembra ben collegata tramite Facebook, tramite i social network, i messaggi, i telefonini e quant'altro, però che crea delle lacune. In alcune persone e anche magari in tutti, che certe volte escono fuori, certe volte no, certo. Insomma, sono delle problematiche che noi affrontiamo tranquillamente, nel senso che almeno abbiamo una concezione della musica come fra virgolette impegnata, nel mm-hmm. senso deve parlare di qualcosa che deve porre l'attenzione su un problema, certo. Su una questione, certo, quella, diciamo, è quello da cui scatta tutto, sì, deve far nascere delle domande, sì, anche, sì, no? Sì, sì. Bene, una musica, una musica riflessiva, sì. Dice Ricky, un altro messaggio, davvero bravi, bella musica, continuate così ragazzi, grazie. Bene, grazie Ricky, grazie. Allora, altra domanda, volevo chiedervi, insomma, se per quanto riguarda la composizione, qual è la vostra strategia creativa? In poche parole, come nasce una canzone? In quale situazione generalmente la domanda nasce? Più difficile al mondo. Come nasce una canzone? Nasce da un'idea piccolissima o nasce da tutta una frase musicale? Cioè dipende proprio dalle varie situazioni, dipende da se può nascere dal testo. Io personalmente scrivo magari scrivi tu le canzoni, sì, i testi, sì, no? Sì. Quindi magari spesso mi capita che dal testo si apre veramente un mondo. Già mi partono un sacco di idee. Quindi prima le parole, poi la musica? Spesso sì, però non sempre. A volte si ha proprio il riff e quindi adatti un testo perché ti richiama a qualcosa e apre vari cassetti. Ti svegli con un motore. Cioè, esatto, la canzone si aspetta che ti la vada. Poi arrivi in studio e te la sei scordata. Esatto, a parte quello. Che infatti quello lì, i cellulari aiutano perché infatti, registri dovunque. Infatti. Va bene, allora, altra domanda. No, facciamo una canzone, ascoltiamo una canzone. Sempre registrato in studio, fa parte, sì, di quest'ultimo album? Al momento non abbiamo proprio un album che contiene tutto, però ci stiamo lavorando. Ci state lavorando, quindi in anteprima però Rock Revolution, magari lo troverete prossimamente nei migliori negozi di dischi. The Ups and Drinks, Give Me Up. Del fatto che ci sono delle sonorità che comunque gira e furria, come si dice nelle nostre parti, un po' si assomigliano, e parlavamo con Frank del fatto che alcune persone gli hanno già detto una volta che il loro sound si assomiglia, non vorrei dire uguale, non, perché ovviamente non lo è, però c'era un qualcosa che li faceva pensare Duran Duran, eh? Sì, un mio carissimo amico che saluto perché sarà sicuramente come si chiama? Luigi, lo salutiamo. Salutiamo Luigi, che mi ha prodotto, mi è rimasta anche questa cosa. Sta cosa di Duran Duran, dice, sai, avete delle sonorità che vanno a ricordare Rio, vattela a sentire. Io subito, non a caso, sono stati uno di quei gruppi degli anni 80 che hanno fatto la storia, adesso sono 35 anni quasi che suonano assieme, quindi tanto di cappello, no? Spesso, magari anche senza volerlo, viene da Rob, viene da Ciccio, dei motivetti che vanno a richiamare sonorità già passate, ma comunque vorrei anche azzardare, grazie a noi sono sempre vive. No, ma è bella grazie questa noi, cosa ad altri, ovviamente, è bella questa cosa che... no, non a caso insomma un musicista lavora e propone sulla base poi di lavori di altre persone, ma non è che significa si copia la musica di altri, bisogna si anche solo sapere copiare della cultura, cioè, no? E poi la si evolve a modo sì, proprio sì. Bene, allora con noi questa sera gli Upset Drink da Palermo, stiamo conoscendo questa nuova band musicale. Volevo chiedervi, tantissime band preferiscono cantare in inglese, voi avete adottato e scelto anche a vostra volta questa scelta di cantare in inglese, ma al di là dell'aspetto diciamo linguistico melodico, c'è anche un aspetto commerciale per poter vendere i dischi anche all'estero? Sì, ovvio. Eventualmente? Sì, ecco. Proprio totalmente, nel senso che... cioè non è una scelta, però perché comunque come ti dicevo prima è una scelta proprio dettata dal cuore, nel senso ci è sempre piaciuto l'inglese, ascoltiamo musica inglese, senz'altro appena pensiamo un attimo a la possibilità di uscire dall'Italia, cioè quanto è grande l'influenza dell'inglese fuori all'Italia, proprio a conti fatti è sicuramente allettante, diciamo, l'inglese rispetto all'italiano. Ma vi è mai passata per la testa l'idea di cantare in italiano una canzone? Mai. No. Zero. No. Bene, perfetto. Un altro messaggio da parte di Rachele che dice semplicemente grandiosi. Grazie, un altro bel complimento per voi. Questo complimento serve ad aprire e presentare la prossima canzone che suonerete dal vivo, canterete dal vivo. Cosa ci fate ascoltare di bello? Allora, il prossimo brano si chiama I Will Get You. Insomma, parlo un attimo del testo. Parlo sì, volentieri, di cosa parla questa canzone? Cioè, lo dice già il titolo, I Will Get You, cioè ti avrò, nel senso non a una persona, ma a qualcosa in generale. Ci si può un po' riconoscere chiunque. È proprio un inno, diciamo, a ottenere qualcosa, alla volontà di ottenere qualcosa. Quindi al raggiungimento di un obiettivo. Sì, bene. Sì, sì. Gli Upset Drink Live Unplugged da Rock Revolution. Buon ascolto. There's open space, I travel since it began. No flesh and bones can blow away my dream anymore. Can you feel my slow steps? Can you feel the trembles from the earth? Get the best from these vibrations. All you will is making the sun sweat. On this road stands an hour. Remember this when you're here. We'll touch you with its weight. The kiss the shell, I don't know. Nothing but a future. By the feet on the dust. I will catch you. Bring me here what I need. With your legs to my knees. I will catch you. Change the body of the skin. No one else you can win. You notice my run in the critical fights, the sacrifice, and the will I have, the trust in what I do. Those streets without you on these roads stands and I lose. Remember this when you hit, we'll start to work this way. The kiss that surely don't know nothing but future or about to feel on the door. I will get you. Bring me here what I need. We're touch with my hands, bringing the bones of living out of time. Ah, you're climbing up this mountain, climbing up this mountain, you don't let no one can get you down. To me, I will catch you, changing body over skin. No one else is the wind. I will catch you, bring me here what I need. Put your legs to my knees. I will catch you, changing body over skin. No one else is the wind. And Drinks Rock Revolution, ragazzi, complimentoni veramente. Grazie. Bel rock and roll, è davvero un piacere ascoltare la musica quando è fatta con questa energia, con questo sentimento. Tanti grazie, complimenti, grazie. Veramente. Grazie. Gli Ups and Drinks da Palermo, stiamo conoscendo la musica palermitana. Il rock and roll è vivo, ragazzi. C'è qualcuno che sosteneva che tempo fa che il rock c'era, era morto. No. C'è ancora. Il rock c'è. Bisogna mantenerlo in vita, comunque. Infatti, bisogna mantenerlo in vita, sì. Infatti. Dunque, siamo praticamente arrivati alla conclusione di questa intervista. Volevo chiedervi, quindi, prossimamente, allora, ci sarà domani a Palermo una serata dove sarà possibile ascoltarvi dal vivo in versione elettrica. Sì, in elettrico. Oltre quella serata poi abbiamo il 28, quindi domenica pomeriggio, al Festival del Vento di Trapani. Uh-huh. Poi il primo maggio a Portella della Ginestra. Un luogo importante. Sì. Ci ha fatto molto piacere poter partecipare al primo maggio, quindi diciamo siamo carichi e speriamo di fare una bella figura. Bella figura, ma sicuramente sarà così, guarda, sono certo di questa cosa. Sì. Invece parlavamo del fatto che quindi state lavorando a un primo album, stiamo mettendo insieme più brani possibili. Al momento ne abbiamo 7 più o meno messi da parte. Mm-hmm. Quindi stiamo lavorando per metterli insieme e cercare di farli girare per certo, il mondo. Certo. Quindi immagino che ancora non è possibile ascoltare questa musica online, o sì? No, queste due sì. Due sì, e per il resto tutto dal vivo. In attesa di questo fatidico disco che verrete a presentare a Rock Revolution. Con piacere. Va bene, ragazzi, grazie di essere stati a Rock Revolution. Grazie. In bocca al lupo. Grazie, crepi. The Ups and Drink. Ciao ragazzi, buon ritorno. Ciao a tutti. Adesso ci trasferiamo virtualmente in uno stadio per andare a gustare della musica dal vivo con Rock Revolution Live. Rock Revolution Live. Too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz move down. Competition, too many other places. Yeah, but the horns, they're blowing that sound, they're blowing. Way on down south. Way on down south, London town. Check it out, Guitar Joe. Now he knows all them fancy curves. With this rhythm, gonna make that guitar cry and make it sing. Sending all the guitar and just all he can afford. When he gets up under them colored lights, gonna play that. And now he doesn't mind if he doesn't make that fancy scene. But daytime job, he's doing quite alright, thank you very much. Sitting in a foreign lady with the sultan, yeah, with the sultan. Dress their baggies in their best king's robe. With you there, mounted a trumpet playing man. Cause it ain't what they call it, a rock and roll. The Sultan. Oh yeah, the Sultan's playing for you. Yeah, we're gonna solve the problems. Revolution Live. Vivi l'emozione di assistere al più bel concerto della tua vita. Era Rock Revolution Live, vivi l'emozione di assistere al più bel concerto della tua vita. Abbiamo ascoltato i Dire Straits con Saltano Swing, singolo del gruppo musicale Dire Straits, estratto dall'album del 1978, per appunto Saltano Swing, e fu il singolo di debutto dei Dire Straits ed è anche una fra le canzoni più note proprio della band. Fu subito apprezzata dalla critica e raggiunse rapidamente i vertici delle classifiche. La particolarità per cui piacque maggiormente fu sicuramente l'assolo finale, che ancora oggi è uno dei più belli della storia della musica rock. Altra canzone che abbiamo ascoltato era Annie Quinn con Under Pressure, una canzone scritta a quattro mani, come anticipato, con David Bowie. La prima collaborazione della band con un altro grande artista, per l'appunto David Bowie. La canzone sarà inserita poi nell'album Hot Space del 1982. Inizialmente, pensate un po', Under Pressure non era nei piani della band e Bowie, perché il cantante doveva solamente fare una voce nella canzone, Cool Cat, era sempre deciso a non far parte di questo disco Hot Space. Quando finirono le registrazioni, Bowie non fu contento del risultato, così lui e Freddie decisero di scrivere il brano. La canzone inizialmente fu chiamata People on the Streets, ma poi variò in Under Pressure. Le versioni live del brano sono leggermente più veloci rispetto a quella originale. Comunque tutt'oggi è possibile ascoltare sia nell'album di David Bowie che in quello dei Queen la canzone Under Pressure. Adesso arrivano i due brani in sequenza. Sunshine beckons to you, and your wings begin to unfold. The thoughts you bring and the songs you sing are gonna keep me from the cold. And if a soul is hidden among you, and its words may wound my soul, you can't fill me up with what you got, 'cause my heart's been a keeping on. She is love, and the ways are high and steep. She is love, and I believe her when she speaks. Love, and her ways are high and steep. She is love, and I believe, I do believe her when she speaks. All my thoughts of passion and the dreams of my delight, whatever stirs my mortal frame, will you keep it warm at night? I don't know where you come from, I know I haven't got a clue. All I know is I'm in love with someone who loves me too. She is love, and her ways are high and steep. She is love, and I believe her when she speaks. Love, and her ways are high and steep. She is love, and I believe, I do believe her when she speaks. Cos'è un rock and roll? Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Grande Rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Diamoci sotto come dei dannati. Are you ready to go?

stasera I Love Rock and Roll. Like saying, Johnny be good tonight. Go, go, go, go, Johnny, go, go. Bella sta canzone, go, go. Bill Haley in This Comets, We Are Gonna Rock Around the Clock. Una canzone scritta, pensate un po', nel 1952 da Maxi Freedom e James Myers, incisa nell'aprile del 54 da Bill Haley in This Comets. Poi abbiamo ascoltato Chuck Berry con Johnny B. Good, la versione in chiave rock and roll del sogno americano. Praticamente un povero ragazzo di campagna diventa una star grazie al duro lavoro e la sua abilità a suonare la chitarra. Altri tempi, voglio vedere se al giorno d'oggi è così facile questo sogno American Dream, American Woman. No, beh, quella è un'altra cosa. Adesso invece andiamo ad ascoltare la rubrica dedicata alla musica acustica, in particolare Unplugged, con altre due belle canzoni per Rock Revolution Unplugged. Paulie wants a cracker, think I should get off the first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Is it me? Have you seen? Let me clip dirty wings. Let me take a ride with yourself. Want some help? Help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride with yourself. Want some help? Help myself. Falling wants a cracker. Maybe she would like more food. Ask me to. rubrica di questa sera, Rock Revolution Unplugged, i Nirvana e poi gli Eagles, Hotel California. Grazie a tutti per essere stati con noi, ringrazio Simone, grazie Simone, buonanotte, Ida parla vecchia nostra redazione, ovviamente tutti voi che siete rimasti con noi fino adesso, appuntamento a domani per quanto mi riguarda, dalle 18 in poi su CRMP Radio per vivere un altro momento dedicato a Casa Sposi 2013 da Campo Felice di Roccella in diretta con CRMP Radio. Invece per quanto riguarda Rock Revolution, ovviamente la replica di domenica sera dalle 21 a mezzanotte e poi il nuovo nuova puntata, nuovo programma il prossimo venerdì, sempre su CRMP Radio, sempre Rock Revolution, sempre grande rock e artisti emergenti. Grazie a tutti voi, appuntamento la prossima settimana. Bye bye! Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRMP Radio.